In sala da pranzo non tardarono ad essere raggiunti da Mary e da Catherine, che erano state troppo impegnate nei loro appartamenti separati per farsi vedere prima. Una veniva dai suoi libri e l'altra dalla toeletta, sia l'una che l'altra però avevano un'espressione abbastanza composta e nessun cambiamento era visibile in loro, salvo che la mancanza della sorella prediletta o la stizza che la faccenda aveva causato avevano conferito alla voce di Catherine un tono ancora più concitato del solito. Quanto a Mary, era rimasta abbastanza padrona di sé per bisbigliare ad Elizabeth con aria gravemente meditabonda appena si furono sedute a tavola. È una faccenda quanto mai deplorevole e se ne parlerà probabilmente a lungo. Noi dobbiamo tuttavia arginare il flusso della maldicenza e riversare nei nostri cuori esulcerati il balsamo della fraterna consolazione. Poi, vedendo che Elizabeth non aveva nessuna voglia di rispondere, soggiunse: per quanto l'accaduto sia una sventura per Lydia, se ne può trarre un utile ammaestramento, che in una donna la perdita della virtù è irreparabile, che basta un unico passo falso a trascinarla in una rovina senza fondo, che la sua reputazione non è meno fragile che preziosa e che essa non sarà mai abbastanza guardinga nel suo contegno verso l'immeritevole altro sesso. Elizabeth spalancò tanto d'occhi per lo stupore, ma era troppo stanca per trovare una qualunque risposta. D'altronde Mary continuò a trovare conforto in quella specie di aforismi morali dettateli dalla sciagura. Nel pomeriggio le due sorelle maggiori riuscirono a starsene mezz'ora per conto loro ed Elizabeth si valse immediatamente di quell'occasione per far nuove domande, a cui Jane fu ugualmente pronta a rispondere. Dopo aver unito i loro lamenti a quelli di tutti sulle tremende conseguenze di quell'evento, che Elizabeth aveva ormai per sicuro e che Jane non poteva garantire essere del tutto improbabile, la prima continuò: ma raccontami tutto, tutto quello che non ho ancora sentito in proposito. Dammi altri particolari. Che ha detto il colonnello Forster? Non avevano avuto sospetto di nulla prima della fuga. Dovevano pure averli visti sempre insieme. Il colonnello Forster ha ammesso di aver spesso sospettato una certa simpatia, specialmente da parte di Lydia, ma nulla da destare apprensione. Sono così addolorata per lui. Si è dimostrato tanto premuroso e cortese con noi. Si disponeva già a venire da noi per metterci al corrente della sua preoccupazione ancor prima di avere la più lontana idea che non fossero andati in Scozia. Non appena cominciò a diffondersi quel dubbio, affrettò il suo viaggio. E Danny era convinto che Wickham non si sarebbe sposato? Sapeva del loro proposito di fuga? Il colonnello Forster si è incontrato con Danny personalmente? Sì. Ma interrogato da lui, Danny negò di sapere alcunché del loro piano e non volle palesare la propria vera opinione in proposito. Non ripeté di aver convinto che non si sarebbero sposati e questo mi lascia sperare che già prima egli fosse stato frainteso. E finché non venne il colonnello Forster in persona, nessuno di voi dubitò neppure che non fossero realmente sposati. Com'era possibile che un'idea simile ci attraversasse il cervello? Io mi sentivo un po' a disagio, un poco timorosa della felicità coniugale di mia sorella vicino a lui, perché sapevo che non sempre la sua condotta era stata ineccepibile. Né il babbo né la mamma sapevano nulla di questo, capivano soltanto che era un'unione quanto mai insensata. Allora Catherine ha confessato, trionfanti, come era naturale del resto per il fatto di saperne più di tutti noi altri, che Lydia, nella sua ultima lettera, l'aveva preparata a un passo del genere. Da molte settimane, a quanto pare, Kitty sapeva che erano innamorati. Ma non prima che andassero a Brighton? No, non crederei. E ti è sembrato che il colonnello Forster avesse personalmente una cattiva opinione di Wickham? Ne conosci il vero carattere? Devo ammettere che non ha parlato di Wickham con l'entusiasmo di un tempo. Lo ha giudicato imprudente e prodigo. E da quando è accaduto questo triste fatto, si è sparsa la voce che abbia lasciato Meryton ingolfato nei debiti. Ma spero che sia falso. Oh, Jane, se fossimo state meno discrete, se avessimo riferito quello che sapevamo sul suo conto, forse tutto ciò non sarebbe accaduto. Forse sarebbe stato meglio. Ma sembrava così ingiusto svelare gli errori passati di una persona senza conoscerne i sentimenti attuali. Abbiamo agito con le migliori intenzioni. Il colonnello Forster ha saputo ripetere nei particolari quel che diceva il bigliettino di Lydia a sua moglie? Ce l'ha portato in lettura. Jane allora lo tolse da sottacchino e lo porse ad Elizabeth. Diceva così: Mia cara Henriette, ti metterai a ridere quando saprai dove sono andata. E non posso a meno di ridere io stessa della tua sorpresa di domattina appena vi accorgerete che non ci sono più. Vado a Gretna Green e se non sai indovinare con chi, lasciati dire che sei una grulla, perché non c'è un uomo che io ami al mondo. Quest'uomo è un angelo. Non sarei mai felice senza di lui, così non giudicar male la nostra fuga. Non occorre che tu avverta Lombor che me ne sono andata, se non ne hai voglia, perché così la sorpresa sarà per loro ancora più grande quando scriverò e mi firmerò Lydia Wickham. Che bello scherzetto. Non riesco quasi a scrivere, tanto mi viene da ridere. Fa, ti prego, le mie scuse a Pratt, col quale non posso mantenere l'impegno di danzare questa sera. Digli che spero mi vorrà perdonare quando saprà tutta la faccenda e digli che sarò lietissima di ballare con lui la prossima festa a cui ci incontreremo. Quando tornerò a Longbourn, manderò a ritirare i miei vestiti. Vorrei intanto che tu dicessi a Sally di rammendarmi quel grande strappo che ho fatto nel vestito di mussola ricamata prima di riporre gli abiti nella valigia. Addio. Salutami affettuosamente il colonnello. Spero che berrete alla prosperità del nostro viaggio. La tua affezionata amica, Lydia Bennet. Oh, insensata! Insensatissima Lydia! Esclamò Elizabeth quando ebbe finito. Che specie di lettera da scrivere in un momento simile! Ma almeno dimostra che lei prendeva sul serio lo scopo del viaggio. Qualunque cosa egli sia riuscito a convincerla di fare dopo, da parte di lei non c'è stato nessun proposito disonesto. Povero babbo, che cosa deve aver provato? Non avevo mai visto nessuno così abbattuto. Per 10 minuti non è stato capace di dire una parola. La mamma si è sentita male subito e tutta la casa era in un tal subbuglio. Oh, Jane, c'è stato un solo fra i nostri domestici che non abbia saputo tutta la storia prima della fine della giornata. Non so, me lo auguro, ma è molto difficile mantenere il controllo di sé in momenti simili. La mamma è stata presa da una crisi isterica e benché io mi sia sforzata di assisterla quanto più potevo, temo di non aver fatto tutto quello che avrei dovuto. Ma il terrore di ciò che sarebbe forse accaduto mi toglieva tutte le energie. L'assistenza che le hai prodigata è stata di troppo per te. Non hai buon aspetto. Se fossi stata io con te, a te sola è toccato ogni cruccio, ogni angoscia. Mary e Catherine sono state buonissime e avrebbero condiviso ogni fatica, ne son certa, ma io non l'ho ritenuto giusto per loro. Kitty è esile e delicata e Mary studia tanto che non bisogna interrompere le sue ore di riposo. Martedì, appena partito il babbo, venne a Longbourn la zia Phillips, che fu così buona da rimanere con me fino a giovedì, prodigando a tutti aiuto e conforto. Anche Lady Lucas è stata molto gentile. È venuta a piedi sin qui mercoledì mattina per dolersi con noi dell'accaduto e offrire i suoi servigi o quelli delle sue figliole se potevano essere utili. Avrebbe fatto meglio a starsene a casa. Forse l'intenzione era buona, ma in una disgraziata circostanza, al par di queste, i vicini si vedono sempre fin troppo. Offrire aiuto è impossibile, le condoglianze sono insopportabili. Che trionfino pure di noi a distanza e siano soddisfatti così. Passò quindi ad informarsi delle misure che il padre intendeva prendere durante il suo viaggio a Londra per ritrovare la figliola. Credo che intendesse recarsi a Epsom, il luogo dove per l'ultima volta ammutarono i cavalli, incontrarsi coi postiglioni per vedere di cavare qualche cosa anche da loro. Il suo scopo precipuo doveva essere quello di scoprire il numero della vettura da nolo che li prese a Clapham. Questa vettura proveniva da Londra con dei passeggeri. Il babbo pensava che il fatto di un signore e di una signora che passano da una carrozza all'altra poteva essere stato osservato, così voleva fare qualche indagine a Clapham. Se fosse comunque riuscito a scoprire dove il cocchiere aveva prima deposto i suoi passeggeri, avrebbe fatto in modo di recarvisi per continuarvi le sue indagini e sperava che non fosse impossibile ritrovare il posteggio e il numero della vettura da nodo. Se avesse altri progetti, non so, ma avevo una tal fretta di partire ed era così sconvolto che mi è stato difficile accertare anche questo poco. Capitolo 48. L'indomani mattina tutti speravano in una lettera del signor Bennet, ma la posta venne senza portare di lui nemmeno un rigo. I suoi familiari lo conoscevano in circostanze normali come un corrispondente assai trascurato e ritardatario, ma questa volta lo avevano sperato capace di uno sforzo. Furono costretti a concludere che non aveva notizie confortanti da mandare, ma avrebbero desiderato essere sicuri anche di questo. Il signor Gardiner non aveva atteso che la posta prima di partire. Partito lui, si sentirono quantomeno sicuri di ricevere regolarmente notizie di quanto andava succedendo. Nel lasciarle, lo zio promise di far pressione sul signor Bennet per persuaderlo a tornare a Longbourn al più presto possibile, e con ciò, con grande consolazione di sua sorella, che considerava questa la sola via di scampo perché il marito non fosse ucciso in duello. La signora Gardiner, coi suoi bambini, doveva trattenersi nello Herefordshire qualche giorno di più, poiché ella pensava che la sua presenza potesse essere d'appoggio ai nipoti. Le aiutava nelle cure prodigate alla signora Bennet ed era loro di gran conforto nelle ore libere. L'altra loro zia veniva a trovarle spesso e sempre, diceva col proposito di far loro animo, di rincuorarle, sebbene poiché non capitava mai senza aver da riferire qualche nuovo esempio delle sregolatezze di Wickham, di rado se ne andasse senza lasciarle più abbattute di quel che le aveva trovate. Tutta Meryton sembrava accanita a gettar fango addosso all'uomo che soltanto 3 mesi addietro era stato quasi un angelo del cielo. Si affermava che avesse lasciato debiti con ogni negoziante del luogo e che non v'era famiglia di cui non avesse teso le sue reti, reti che venivano onorate col titolo di seduzioni. Tutti lo accusavano di essere il giovane più perverso del mondo e chiunque cominciò a scoprire di aver sempre diffidato di quella sua apparente bontà. Elizabeth, che pur non prestava fede che alla metà di quanto si andava dicendo, credeva tuttavia abbastanza per essere ancora più certa che la sorella fosse rovinata. E anche Jane, che a quelle voci dava anche minor credito, aveva abbandonato quasi ogni speranza, tanto più che ormai era giunto il momento che se fossero andati in Scozia, alla qual speranza non aveva mai interamente rinunciato, essi ne avrebbero con ogni probabilità dovuto ricevere notizia. Il signor Gardiner lasciò Longbourn di domenica. Martedì la moglie ebbe una sua lettera nella quale era detto che arrivando aveva subito ritrovato il cognato e l'aveva persuaso a recarsi in Gracechurch Street. Il signor Bennet si era fermato a Epsom e a Clapham prima del suo arrivo, ma senza riuscire ad avere notizie soddisfacenti. E che ora era deciso a fare indagini presso tutti gli alberghi principali della città, visto che il signor Bennet riteneva possibile che appena giunti a Londra fossero andati in un albergo prima di trovare altro alloggio. Lui, il signor Gardiner, non si aspettava da quel passo nessun risultato, ma poiché il cognato ci teneva, si riprometteva di aiutarlo nelle sue ricerche. Aggiungeva che il signor Bennet per il momento non sembrava affatto propenso a lasciare Londra e prometteva di scrivere di nuovo prestissimo. Verrà anche un postscritto del seguente tenore. Ho scritto al colonnello Forster esprimendogli il desiderio che gli scopra se gli è possibile, attraverso qualcuno degli amici intimi del giovanotto al reggimento, se Wickham abbia qualche parente o qualche amico in grado di sapere in quale parte della città egli si è ora nascosto. Se ci fosse qualcuno a cui rivolgersi con la probabilità di ottenere una traccia del genere, la cosa potrebbe rivelarsi di decisiva importanza. Per il momento non abbiamo nulla che ci guidi. Il colonnello Forster farà, ne son certo, tutto il possibile per venirci incontro. Del resto, ripensandoci, Lizzie forse potrebbe dirci, meglio di chiunque altro, quali sono i suoi congiunti ancora in vita. Elizabeth non ebbe affatto difficoltà a intuire donde provenisse tanta deferenza per la sua autorità. Tuttavia, non era in suo potere fornire indicazioni di natura così esauriente come il complimento meritava. Non aveva mai sentito dire che egli avesse avuto congiunti, se non i genitori, entrambi morti da molti anni. Era comunque probabile che qualcuno dei suoi compagni del Shire sapesse fornire più ampie delucidazioni, e benché non si scaldasse molto per la risposta, la richiesta forniva tuttavia motivo di attesa. Ormai ogni giorno a Longbourn era giorno di ansie, ma il momento di massima tensione era quello in cui si aspettava la posta. L'arrivo delle lettere era l'oggetto essenziale dell'impazienza di ogni mattina. Qualunque notizia, buona o cattiva, ci fosse da riferire, essa sarebbe stata comunicata per mezzo di una lettera e ogni nuovo giorno era atteso come quello che avrebbe recato notizie importanti. Ma prima che il signor Gardiner si rifacesse vivo, giunse una lettera indirizzata al babbo da un altro settore, dal signor Collins. Jane, che aveva ricevuto istruzioni di aprire in sua assenza tutte le lettere indirizzate a lui, la lesse, mentre Elizabeth, sapendo quale spasso le lettere del cugino avevano sempre rappresentato, la lesse con lei sopra la sua spalla. Diceva così: Gentilissimo signore, i nostri vincoli di parentela e la mia posizione sociale mi inducono ad esprimerle il mio cordoglio nella dolorosa circostanza per la quale ella si trova attualmente a soffrire e di cui fummo resi edotti ieri da una lettera proveniente dallo Herefordshire. Sia certo, gentilissimo signore, che la signora Collins ed io proviamo una sincera compassione per lei e per tutta la sua rispettabile famiglia in questo loro dolore, che deve essere dei più amari, poiché deriva da una causa che il tempo non vorrà rimuovere. Per parte mia, non so trovare argomenti che possono alleviare un colpo tanto duro o che possono confortarle in una circostanza che più di qualunque altra deve affliggere il cuore di un padre. In confronto a ciò, la morte della sua figliola sarebbe stata una benedizione. E tanto più è deplorevole la cosa, in quanto c'è ragione di supporre, a quel caso che mi riferisce alla mia diletta Charlotte, che codesta libertà di costumi della sua figliola sia derivata da un colpevole grado di indulgenza. Benché nel tempo stesso, e valga ciò di conforto a lei e alla signora Bennet, io sono proclive a credere che la sua inclinazione naturale fosse di per sé cattiva, altrimenti ella non avrebbe potuto rendersi colpevole di una simile enormità ancora tanto giovane d'anni. Comunque stiano le cose, ella merita profonda compassione, la qual mia opinione non è condivisa soltanto dalla signora Collins, ma altresì da Lady Catherine e da sua figlia, alle quali ho riferito alla faccenda. Esse concordano con me nel paventare che codesto passo falso di una delle sue figlie sarà dannoso alle fortune di tutte le altre. Chi infatti, come Lady Catherine stessa benignamente afferma, vorrà imparentarsi con una famiglia simile. E questa considerazione mi induce a riflettere con accresciuta soddisfazione su un certo avvenimento dello scorso novembre, giacché se le cose fossero andate altrimenti, io sarei stato coinvolto in tutto il loro dolore, in codesta loro sventura. Mi permetta dunque di consigliarle, egregio signore, di consolarsi quanto più possibile, di ripudiare l'indegna sua figliola per sempre, lasciandola da sola a raccogliere i frutti del suo odioso misfatto. Mi creda, egregio signore, eccetera, eccetera. Il signor Gardiner non riscrisse finché non ebbe ricevuto una risposta dal colonnello Forster e anche allora non ebbe notizie confortanti da mandare. Non risultava che Wickham avesse alcun congiunto col quale intrattenesse relazioni ed era certo che di vivi non ne aveva più nessuno. Un tempo aveva vantato numerose conoscenze, ma da quando era entrato nella milizia non risultava che fosse in termini particolarmente amichevoli con alcuna di esse. Non v'era dunque nessuno su cui contare come elemento capace di fornire notizie sul suo conto. E Vera, nelle sue disastrose condizioni finanziarie, un motivo di tenersi celato che si aggiungeva al timore di venire scoperto dai parenti di Lydia, poiché era trapelato che aveva lasciato dietro di sé debiti di gioco ammontati a una cifra assai elevata. Il colonnello Forster riteneva che per saldare le sue spese a Brighton ci volessero più di 1 migliaio di sterline. Doveva parecchio ai negozianti della città, ma i suoi debiti d'onore erano ancora più considerevoli. Il signor Gardiner non aveva cercato di occultare questi particolari alla famiglia di Lombard. Jane ascoltava orripilata. Un giocatore. Questa non me l'aspettavo proprio. Non ci avevo mai pensato. Il signor Gardiner aggiungeva che potevano attendere il ritorno del babbo per l'indomani, che era un sabato. Abbattutissimo per il mancato successo di tutti i loro tentativi. Gli aveva ceduto alle suppliche del cognato di far ritorno in famiglia e lasciar fare a lui quello che le circostanze avrebbero consigliato per la prosecuzione dei loro tentativi. Quando la signora Bennet fu informata di questo, non manifestò tutto il compiacimento che le sue figliole si aspettavano, considerando la grande ansia in cui era stata per la vita del consorte. Ma come? Torna a casa e senza la povera Lydia? Voglio sperare che non lascerà Londra prima di averli trovati. Chi sfiderà più a duello Wickham costringendola a sposarla se lui se ne va via? Siccome la signora Gardiner cominciava a desiderare di essere a casa, fu stabilito che si sarebbe recata a Londra con i suoi bambini nello stesso momento in cui il signor Bennet ne ritornava. La carrozza li portò quindi alla prima tappa del loro viaggio e riportò a Lombard il suo proprietario. La signora Gardiner partì ugualmente perplessa sul conto di Elizabeth e del suo amico del Derbyshire, come lo era stata da quando aveva lasciato quella regione. Davanti a loro, la nipote non lo aveva mai nominato spontaneamente, e quella mezza speranza formulata dalla signora Gardiner, che alla loro partenza avrebbe subito tenuto dietro una lettera di lui, era finita in nulla. Elizabeth non aveva ricevuto, da quando era tornata, nessuno scritto che potesse provenire da Pemberley. L'attuale triste condizione della famiglia rendeva superflua ogni altra giustificazione per il suo morale depresso. Nulla perciò era consentito equamente arguire da quel fatto, benché Elizabeth, che era ormai abbastanza in chiaro coi propri sentimenti, fosse perfettamente sicura che se non avesse mai conosciuto Darcy, avrebbe potuto affrontare un po' meglio l'onta del disonore di Lydia. Sarebbe potuta risparmiare, pensava, almeno una notte insonne su due. Quando arrivò, il signor Bennet aveva in apparenza tutta la sua consueta filosofica flemma. Disse quel poco che era sempre stato solito dire, non accennò alla faccenda che aveva causato la sua assenza e ci volle un po' di tempo prima che le figliole trovassero l'ardire di parlargliene. Non fu che nel pomeriggio, quando egli le raggiunse per il tè, che Elizabeth si arrischiò a entrare in argomento e allora, dopo che ella ebbe brevemente espresso il suo rincrescimento per quello che gli aveva dovuto patire, le rispose: Non parlarne. Chi deve soffrire se non io? La colpa è tutta mia e devo pagare il fio. Non sia troppo severo con se stesso, rispose Elizabeth. Fai bene a mettermi in guardia contro questo errore. La natura umana è così incline ad incorrervi. No, Lizzy, lascia che una volta in vita mia io senta quanto ho da rimproverarmi. Non ho timore di esserne sopraffatto. Sparirà abbastanza presto. Crede che siano a Londra? Certo, dove potrebbero essere nascosti meglio. E poi Lydia aveva tanta voglia di andare a Londra, soggiunse Catherine. Beata lei allora. È probabile che la permanenza debba durare un po'. Poi, dopo un breve silenzio, riprese: Lizzy, non ti servo rancore per aver avuto ragione di darmi quel consiglio lo scorso maggio. Visto come sono andate le cose, ha dimostrato una certa giustezza di vedute. Furono interrotte da Jane, che veniva a prendere il tè per la mamma. Ah, ecco un po' di parata che fa bene alla salute, egli esclamò. Conferisce alla sciagura tanta raffinatezza. Un giorno o l'altro voglio fare anch'io lo stesso. Voglio chiudermi nella mia biblioteca col berretto da notte e la vestaglia e dar tutta la noia che posso. O magari farei meglio a rimandar tutto quando sarà scappata la Kitty. Ma io non ho intenzione di scappare, papà. Se andassi io a Brighton, mi comporterei meglio di Lydia. Tu andare a Brighton? Non mi fiderei di mandarti neppure fino a Eastbourne, nemmeno per 50 sterline. No, Kitty, ho finalmente imparato ad essere prudente e tu ne sentirai le conseguenze. In casa mia non entrerà mai più un ufficiale, non lo lasceremo entrare nemmeno in paese. I bali saranno proibitissimi. A meno che tu non ci vada accompagnata da una delle tue sorelle. E non metterai più piedi fuori di casa finché non sarai riuscita a dimostrare che 10 minuti della giornata li hai spesi in modo giudizioso. Catherine, che prendeva sul serio tutte quelle minacce, incominciò a piangere. Su, su, non essere addolorata. Se farai la buona per i prossimi 10 anni, poi alla fine ti porterò a vedere una rivista. Capitolo 49. 2 giorni dopo il ritorno del signor Bennet, passeggiando insieme nel boschetto dietro casa, Jane ed Elizabeth videro la governante muovere alla loro volta e, arguendo che venisse a chiamarle da parte della madre, le andarono incontro. Tuttavia, quando fu loro vicina, invece di esprimere l'atteso invito, quella disse alla maggiore: Mi scusi tanto, signorina, se la interrompo, ma speravo che avessero ricevuto buone notizie dalla capitale, così mi sono presa la libertà di venire a chiedere. Che intende dire, Hill? Non abbiamo avuto punte notizie dalla città. Ma cara signorina, non sa che è giunto un inviato del signor Gardiner per il padrone? È mezz'ora che è arrivato e il padrone ha ricevuto una lettera. Le ragazze corsero via, troppo ansiose di giungere in tempo per parlare. Attraversarono correndo il vestibolo e irruppero nella saletta della colazione e da lì in biblioteca. Il babbo non era né in una stanza né nell'altra, ed esse stavano per correre a cercarlo di sopra in compagnia della moglie, quando mosse il loro incontro il domestico che disse: «Se è del padrone che cercano, signorine, egli sta via verso il boschetto». Ricevuta questa informazione, riattraversarono subito l'entrata e poi di corsa il prato, inseguendo il babbo deliberatamente diretto a un piccolo bosco a fianco del cancello. Jane, che non era così agile, ne aveva tanto l'abitudine di correre quanto Elizabeth, rimase presto indietro, mentre la sorella ansimante lo raggiungeva esclamando piena di ansia: «Oh, babbo, babbo, che nuove ci sono? Ha avuto notizie dallo zio?» «Sì, ho ricevuto una lettera da parte sua per mezzo di un corriere». «Ebbene, che notizie porta? Buone o cattive?» «Che ci si può aspettare di buono? Ma forse ti farebbe piacere leggerla». Elizabeth gliela prese di mano con gesto impaziente. In quella furono raggiunti da Jane. «Leggila forte. Non so quasi neppure io di che cosa parli». Gracechurch Street, lunedì 2 agosto. «Mio caro cognato, finalmente sono in grado di mandarti qualche notizia di mia nipote, tale che nel complesso spero ti soddisferà. Poco dopo la tua partenza, sabato ebbi la fortuna di scoprire in qual parte di Londra si trovassero. I particolari li riservo per il nostro prossimo incontro. Ti basti sapere che li ho scovati. Li ho veduti entrambi». «Allora è come ho sempre sperato!» esclamò Jane. «Sono sposati!» «Li ho veduti entrambi. Non sono sposati, né mi risulta che ve ne sia l'intenzione, ma se tu sei disposta ad assumerti gli impegni che io mi sono arrischiato a prendere per tuo conto, spero che lo saranno fra breve. Tutto ciò che si chiede da te è di assicurare a tua figlia come dote una parte uguale a quella delle altre sorelle sulle 5.000 sterline, loro spettanti dopo il decesso tuo e quello di mia sorella. In più di assumere l'impegno di versarle in vita 100 sterline all'anno. Queste sono le condizioni che, tutto considerato, non esitai ad accettare in tuo nome, per quel tanto che me ne credetti autorizzato. Manderò questa mia per corriere espresso, così che non vada perduto del tempo per la risposta. Da questi particolari comprenderai facilmente che la situazione del signor Wickham non è così disperata come in generale si crede. Sotto questo aspetto il mondo si è ingannato e sono lieto di comunicarti che, anche una volta pagati tutti i debiti, resterà ancora un po' di denaro da assegnare a mia nipote in aggiunta alla sua dote. Se, come ritengo, avverrà, tu mi mandi i pieni poteri di agire in tuo nome in tutta questa faccenda e impartirò subito istruzioni a Eggerston di stilare un accordo come si deve. Non ci sarà più la minima necessità di una tua nuova venuta a Londra. Statene dunque tranquillo a Longbourn e fidati della mia diligenza e premura. Mandami una risposta il più presto possibile ed abbi cura di scrivere esplicitamente. Abbiamo stimato cosa migliore che mia nipote uscisse sposata da questa casa, il che, spero, tu vorrai approvare. Vieni da noi oggi. Scriverò di nuovo appena sarà presa qualche altra determinazione. Il tuo, eccetera, eccetera. Edward Gardiner». «È possibile?» esclamò Elizabeth appena ebbe terminato. «È possibile che si induca a sposarla?» «Wickham non è dunque così spregevole come l'avevamo giudicato, caro babbo. Le faccio i miei rallegramenti». «E ha risposto alla lettera?» domandò Elizabeth. «No, ma devo farlo subito». Ella lo supplicò allora con tutto il cuore di non lasciar passare altro tempo prima di scrivere. «Oh, caro papà!» esclamò. «Torni indietro e scrivi immediatamente. Pensi all'importanza di ogni minuto in una circostanza del genere». «Lasci scrivere a me», propose Jane, se non ha voglia di prendersi quel fastidio. «Non ne ho appunto voglia», gli rispose, «ma bisogna farlo». E in così dire si volse e si avviò con loro verso casa. «E posso chiedere», fece Elizabeth, «ma insomma, con queste condizioni credo che bisognerà accettarle». «Altro che accettarle! Mi vergogno soltanto che gli pretenda così poco». «E si devono sposare. Ecco che uomo è». «Sì, si devono sposare. Non c'è altro da fare. Ma ci sono due cose che sarei davvero curioso di sapere. Primo, quanti quattrini ha dovuto sborsare vostro zio per riuscirvi? E secondo, come farò mai io a pagarlo?» «Quattrini? Lo zio!» esclamò Jane. «Che intende dire, babbo?» Intendo dire che nessun uomo con un po' di criterio sposerebbe Lidia per il magro allettamento di 100 sterline all'anno finché io sono in vita e 50 dopo che me ne sono andato. È verissimo, disse Elizabeth, sebbene prima non ci avessi mai pensato. Pagati i suoi debiti, è ancora qualcosa che avanza. Questa è tutta opera dello zio, buona, generosa creatura. Ma temo che si sia rovinato. Non sarà bastata una piccola somma per riuscirvi. No, confermò il padre. Wickham è un imbecille se la prende per un soldo di meno di 10.000 sterline. Mi dispiacerebbe dover pensare così male di lui proprio all'inizio della nostra parentela. 10.000 sterline? Il cielo non voglia! Come si fa a rimborsare soltanto la metà di una somma simile? Il signor Bennet non rispose e ciascuno di loro, assorto in profondi pensieri, continuò in silenzio finché non raggiunsero la casa. Allora il babbo si ritirò in biblioteca a scrivere e le fanciulle entrarono nella saletta della colazione. E si devono davvero sposare? Esclamò Elisabetta non appena furono sole. Che strano! E di ciò dobbiamo essere liete. Siamo costrette ad allegrarci che si sposino, per quanto scarse possibilità vi siano della riuscita del loro matrimonio, per quanto lui sia un tipaccio, oh Lidia! Io mi consolo a pensare, rispose Jane, che lui certamente non sposerebbe Lidia se non le volesse veramente bene. Benché il nostro buon zio abbia fatto parecchio per liberarlo dai debiti, non posso capacitarmi che gli abbia anticipato 10.000 sterline, una somma del genere. Ha figli suoi e può darsi che ne abbia ancora. Come avrebbe fatto a mettere da parte anche la metà di 10.000 sterline? Se riuscissimo a sapere a quanto ammontavano i debiti di Wickham, rispose Elizabeth, e quanto egli deve riservare per parte sua a nostra sorella, sapremo esattamente che cosa ha fatto per loro lo zio Gardiner, dato che Wickham di suo non ha un mezzo scellino. La bontà degli zii non potrà mai essere ripagata. Il fatto che l'abbiano accompagnata in casa loro, che le abbiano offerto aiuto e protezione, è un tal sacrificio in suo favore che anni di gratitudine non basteranno a compensare. A quest'ora Lidia è con loro. Se tanta bontà non la rende pentita adesso, non meriterà di essere felice. Che momento per lei, quando si ritroverà per la prima volta con la zia. Dobbiamo sforzarci di dimenticare quello che è accaduto, sia da una parte che dall'altra, disse Jane. Io spero e confido che nonostante tutto saranno felici. Il fatto che abbia consentito a sposarla è una prova, secondo me, che Wickham è venuto in un giusto ordine di idee. L'affetto reciproco li rafforzerà e io mi lusingo di credere che si sistemeranno per benino e condurranno una vita così giudiziosa da far dimenticare col tempo la loro passata follia. La loro condotta è stata tale, rispose Elizabeth, che né tu né io né nessuno potrà mai dimenticarla. È inutile parlarne. In quel momento le ragazze si ricordarono che con ogni probabilità la madre era totalmente all'oscuro di quanto era accaduto. Andarono quindi in biblioteca a domandare al babbo se non desiderasse di metterla al corrente. Egli stava scrivendo e senza alzare la testa rispose freddamente: Come volete. Possiamo portare da leggere la lettera dello zio? Portatele quello che vi pare e andatevene. Elizabeth prese la lettera dalla scrivania e insieme andarono di sopra. Con la signora Bennet c'erano sia Mary che Catherine. Sarebbe quindi bastata una sola comunicazione per tutte. Dopo averle vagamente preparato ad ascoltare notizie liete, la lettera fu letta ad alta voce. La signora Bennet non riusciva quasi a contenersi. Appena Jane ebbe letto della speranza del signor Gardiner che Lydia fosse presto maritata, volle dar sfogo alla sua gioia e ogni nuova frase aggiungeva esca al suo entusiasmo. Il gaudio le dava ora un'eccitazione tanto violenta quanto l'inquietudine che le avevano causato prima la preoccupazione e la stizza. Le bastava sapere che la sua figliola si sarebbe maritata. Non la turbava il timore della sua infelicità, non si sentiva umiliata da nessun ricordo della sua cattiva condotta. Cara, cara Lidia, questa sì che è una consolazione. Si sposa, la rivedrò, sposa sì a 10 anni. Ah, oh, caro buon fratello, lo sapevo come sarebbe andata, lo sapevo che sarebbe riuscito a mettere tutto a posto. Che voglia ho di vederla e di vedere anche il caro Wickham. Ma il vestito da sposa. Ne scrivo subito a mia cognata Gardiner. Lizzy, tesoro mio, corri giù da tuo padre e chiedigli quanto è disposto a darle. Resta, resta, vado io. Kitty, suona il campanello per la Hill. Mi vesti in un attimo. Cara, cara Lidia mia, Come staremo allegri tutti insieme quando ci ritroveremo? La maggiore delle sue figliole tentò di attenuare la violenza di quegli entusiasmi richiamando i pensieri della madre alla gratitudine che la condotta del signor Gardiner esigevano da tutti loro. Perché questa felice conclusione va in gran parte attribuita alla sua generosità. Noi siamo persuasi che egli sia impegnato ad aiutare Wickham finanziariamente. Ebbene, è giustissimo. Chi sarebbe tenuto a farlo se non uno zio? Se non avesse avuto una famiglia sua, io e le mie figlie avremmo dovuto avere tutti i suoi denari, sai? Ed è la prima volta in vita sua che ci dà qualche cosa, salvo qualche regaluccio. Bene, come sono contenta. Fra poco avrà una figlia maritata, la signora Wickham. Come suona bene. E ha compiuto soltanto a giugno, 16 anni. Jane cara, sono così agitata che sono certa di non riuscire a scrivere. Così ti detterò e tu scriverai per me. Dopo combineremo con tuo padre la faccenda dei quattrini, ma il corredo bisogna ordinarlo senza indugio. Stava quindi entrando in tutti i particolari della tela, della mussola e della batista e si sarebbe messa a dettare di lì a poco cospicue ordinazioni se Jane non l'avesse convinta, sebbene con qualche difficoltà, ad aspettare di consultare il padre senza disturbarlo. Un giorno di ritardo, le fece osservare, sarebbe stato di scarsa importanza e la madre era troppo felice per essere ostinata come di consueto. E poi le venivano in mente altre idee. Appena son vestita, dichiarò, vado a Meryton a dare queste notizie, buone, ottime, a mia sorella Phillips. Di ritorno posso passare da Lady Lucas e dalla signora Long. Kitty, corri giù a far attaccare la carrozza. Una boccata d'aria mi farebbe un gran bene, ne sono sicura. Ragazze, posso far niente per voi a Meryton? Oh, ecco che viene la Hill. Mia cara Hill, avete sentito le buone nuove? La signorina Lydia si sposa e vi daremo un boccale di punch per far festa alle sue nozze. Subito la signora Hill cominciò ad esprimere la propria soddisfazione. Elisabeth ricevette la sua parte di rallegramenti insieme alle altre e poi, disgustata di tanta balordaggine, si rifugiò nella sua stanza per dar libero corso ai suoi pensieri. La situazione della povera Lydia rimaneva, nel migliore dei casi, abbastanza disgraziata, pure bisognava ringraziare il cielo che non fosse peggiore. Elisabeth ne aveva la precisa sensazione e, benché nelle previsioni per il futuro non ci fosse da aspettarsi per la sorella né ragionevole felicità né prosperità materiale, guardando indietro a ciò che avevano paventato soltanto fino a 2 ore prima, riconobbe tutti i vantaggi di quel che avevano ottenuto.